Luciano, io cerco l'anzola che non c'è, non m'hanno mai mangiato la mano, sono rotondo e senza ruggine, cerco di stare tutto il giorno lì appeso, solo così facendo rimango illeso, che se mi stacco finisco in scatola, restando lì senza la sola. Io sono capitanucciano e cerco la sola che non c'è, posso passar la notte sul divano, sopra una sedia o una lavatrice, se passa il ferro io non mi stiro, ma prego che non mi brucino il filo, se no il mio padrone si incappota e resto lì senza la sola. Capitanucciano, e adesso la sola che non c'è, restiamo appiccicati e ci amiamo dentro al cassetto del mobile, a volte lui mi porta un poco svogliato e resto qualche ora sbottonato, ma son felice perché so dopo qualche ora la sola avrò. Sono capitanucciano, vivo nella sola che non c'è, faccio una vita davvero soprano, soddisfo ogni libidine, e più fa freddo e più sono contento, perché il padrone alla gola sta attento, ed anche quando è seduto a tavola mi spinge lì dentro la sola. Essere un bottone un po'